restrittivo e proibizionista, che cosa succede? Che il mercato, l'attività, quello che viene proibito si sposta immediatamente su un piano di clandestinità, quindi con un grande, con un rischio maggiore, con una tutela ancora minore e quindi con scenari di pericolosità per le prostitute che sono ben più gravi di quelli che ci sono adesso. No, e poi appunto, insomma, come dicevo prima, c'è anche il sindacato del lavoro sessuale in Francia, no? Che appunto, insomma, diciamo che è una sorta di istituzione in merito, contesta pure i numeri, perché poi anche su questo bisogna poi vedere come lavorano anche a livello mediatico e quali sono poi i dati che forniscono poi le istituzioni che propongono queste leggi. Hanno fornito dati, ovviamente l'istituzione che propone ti dice 20.000 sono le prostitute, il 90% sono tutte straniere e vittime di tratta, poverine, dobbiamo aiutarle. Il sindacato ti dice, a parte che non so 20.000 ma sono il doppio come minimo, e poi comunque, cioè, nel senso, ma non sono state censite tra virgolette, perché è facile andare a censire andando magari nei luoghi bui delle strade sapendo che là c'è solo la vittima della tratta. Però allora mi viene una domanda, no? Visto che loro ragionano in maniera istituzionale e con leggi e con multe, per quale motivo non vanno lì nei luoghi dove loro hanno censito queste prostitute vittime di tratta, che tra l'altro normalmente non parlano con nessuno se gli si fa una domanda del genere, quindi sto numero come l'hanno fatto? Perché allora non fermano la tratta? Perché penso che se effettivamente hanno le forze dell'ordine dalla loro parte, penso che allora, se proprio vogliono sconfiggere la tratta, sia abbastanza semplice beccare quelli che si occupano di tratta, almeno di quelle zone, che ne so, di Parigi, e tentare almeno di fermare quei quattro pezzi di merda. Ma lo hanno fatto? No, non lo fanno, però devono punire i clienti, punire poi le prostitute, poi sarà illegale, poi non si potrà più fare. Si aprono scenari di repressione allucinanti e poi comunque di pericolosità molto forte nei confronti di chi fa la prostituta, perché entra in una terra di nessuno, no? Cioè, quando bisogna fare un passo indietro perché la questione diventa illegale, a quel punto è estremamente pericolosa. Poi il terzo punto su cui si basa la legge, scusatemi se sorrido, ma è la rieducazione. Cioè, questo principio della rieducazione, allora, del percorso salvifico che devono fare le prostitute nel momento in cui accettano di essere salvate, perché devono denunciare gli eventuali protettori, mi ricorda un po' l'articolo 18 delle vittime di tratta qui da noi, che noi quando lottavamo per delle donne che erano rinchiuse nei CIE, che erano vittime di tratta, eccetera, noi sapevamo che si potevano diciamo salvare fra virgolette dal CIE, eccetera, utilizzando l'articolo 18. L'articolo 18 prevedeva che le vittime di tratta potessero avere un percorso privilegiato e uscire dal circuito CIE, carcere CIE, con la denuncia dei protettori. Cosa però, detta così, che può essere, dice vabbè, cosa vuoi, una legge buona, invece è una legge pericolosissima. Perché? Perché i protettori, o comunque se c'è una tratta alle spalle delle donne, si rivalgono molto spesso sulle famiglie di origine e sulle persone care. Le stesse donne sono ad altissimo rischio, perché poi l'accettazione o meno della chiamiamolo del pentimento, del ravvedimento, eccetera, è a discrezione del giudice. Quindi il giudice può decidere se la prostituta si è ravveduta o non si è ravveduta. Se per lui non si è ravveduta, abbiamo scherzato, però lei intanto ha denunciato i protettori. E comunque c'è questo meccanismo per cui la prostituta si deve ravvedere e il cliente deve essere rieducato. E per fare questo vengono istituite delle associazioni ufficializzate dallo Stato. È una cosa perversa, cioè già il raccontarlo mi fa venire i capelli dritti. Non so se vi ricordate Arancia Meccanica, la scena in cui devono rieducarlo perché solo in quel modo lui può stare nella società, no? è vero, sì. È vero, no? Cioè, i capelli dritti, ci sono queste associazioni che pagate dallo Stato Stato, anche attraverso le multe, dice la legge, che verranno fatte ai clienti. Quindi hai voglia, fai multe, perché le associazioni poi devono sopravvivere, devono autofinanziarsi, diventa un business, no? Cioè si aprono scenari da paura. E comunque cliente, prostituta, sono tutti infantilizzati, cioè tutti hanno bisogno dello Stato, e non è, non per niente questo è un tipo di impostazione svedese, perché è il punto più alto della socialdemocrazia. Cioè la socialdemocrazia imposta sempre uno Stato etico, e quando la socialdemocrazia, come in questo momento, si coniuga al neoliberismo, che è portatore di un perbenismo di stampo vittoriano, che in effetti è la caratteristica fondante dell'approccio sociale dell'ideologia neoliberista, no, quando il perbenismo di stampo vittoriano si coniuga al politicamente corretto della socialdemocrazia classica, vengono fuori delle aberrazioni di questo tipo. E allora adesso in conclusione volevamo leggervi un estratto, cioè un documento che si chiama La prostituzione non è stupro a pagamento, preso dal femminismo a sud, noblogs.org. Comunque lo potete trovare anche su coordinamento.noblogs.org, sì, perché l'abbiamo postato anche noi. E ve lo volevamo leggere perché insomma l'abbiamo considerato molto importante. Una delle tesi proibizioniste, come ho già scritto altre volte, è quella che la prostituzione sia stupro a pagamento. La tesi ha origini dalle teorie delle femministe radicali americane, Working, McKinnon. Si consolida nelle politiche abolizioniste filosvedesi della Women Lobby europea. E ora è la teoria che accompagna la promozione della proposta di legge che criminalizza i clienti e di fatto proibisce la prostituzione in Francia. La teoria è neofondamentalista, come neofondamentaliste sono altre teorie che riguardano il corpo delle donne. Quella teoria usa il termine stupro per imporre l'idea che tutta la prostituzione sia violenza e che mai nessuno vorrà sceglierla. In realtà a quella tesi si oppongono tante sex workers nel mondo e continuano a chiedere regolarizzazione della professione per le adulte e gli adulti. La prostituzione infatti non è solo femminile, che scelgono di svolgerla. L'idea si fonda anche su una impostazione autoritaria e paternalista che riduce tutte le donne a potenziali inconsapevoli vittime di stupro, cosa che pone le donne in condizione di essere sempre definite vittime, bisognose di tutori, anche se dichiarano di non essere tali. L'idea supponente è che tutte le donne debbano vivere allo stesso modo, in realtà è più lontano da questo concetto malsano e autoritario che impone con la forza l'amor borghese. È una visione sentimentale romantica a tutte le donne che dovranno darla via solo per amore. Molto più complicato parlare di piacere, giacché il piacere presupporrebbe di esplorare varie zone del desiderio, incluso anche quello di vivere esperienze sessuali che probabilmente alla Dorking e alla McKinnon e alle sue seguaci proibizioniste di tutto il mondo avrebbero fatto molto schifo. Molto più complicato parlare di scelta, ma per i neofondamentalisti l'autodeterminazione delle donne non deve essere rispettata. L'unica idea di bene che può essere accreditata a costo di importarla con la forza e con le leggi autoritarie è quella dei proibizionisti. Il punto è che quell'idea di bene rafforza stereotipi sessisti, stabilisce limiti dei soggetti non riconoscendone l'autodeterminazione e legittima la stessa cultura dello stupro. Dire a una donna di rivestirsi per rispetto di sé o dire che dovrà farlo per non provocare lo stupratore è esattamente la stessa cosa, perché si attribuisce a lei e ai suoi cattivi comportamenti qualcosa che ha origini culturali e non fisiologiche ben diverse. Dire che un rapporto scambio a pagamento consensuale sia uno stupro significa che si legittima lo stupro quando esso avviene ai danni di una sex worker. Anzi, si dice che l'unico modo che una donna ha per non essere stuprata è quello di non fare la prostituta, il che coincide con l'idea appunto molto antiquata che la donna possa essere stuprata solo fuori casa e da estranei. Se ogni rapporto sessuale in situazioni di scambio economico è stupro, vorrei capire come mai non vedo in giro crociate contro il matrimonio, perché quello è il luogo principe in cui il sesso diventa anzi un dovere morale a cui adempiere. Ipocrisia di questo decennio e di questi strani femminismi neofondamentalisti. Le sex worker non fanno che dirlo. Il proibizionismo alimenta uno stigma che uccide e produce violenza, perché a partire dal disconoscimento dei soggetti che deriva la violenza. Dare legittimità, diritti, credito ai soggetti consente loro di individuare proprie soluzioni e metodi per ottenere garanzia di diritti anche quando si parla di violenza. Avevi paura. E intanto vi ricordiamo la nostra mail coordinamenta@autistica.org, il nostro blog coordinamenta.noblogs.org. Vi ricordiamo che siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e che questa radio non vive d'aria. E poi insomma l'articolo si concludeva con un intervento di una sex worker, Serbilla. Volevo esprimere qualche dubbio sull'equiparazione della prostituzione allo stupro. Posto che chi è vittima di coercizione subisce una violenza, posto che ogni persona, mi sembra, anche quando sceglie di fare la sex working è esposto a forme di violenza, equiparare tout court la prostituzione allo stupro penso non faccia per nulla del bene né a chi è vittima né a chi non lo è o non lo è stato ancora. Un discorso etico dovrebbe dare ai singoli soggetti forza, riconoscergli capacità di scelta e di contrattazione, mediazione all'interno di tutte le forme di lavoro. È lavoro tutto ciò che prevede un passaggio di denaro tra chi offre una prestazione e chi la acquista. Poi ci sono lavori sottopagati, lavori di merda, lavori fantastici, lavori medi, lavori che vanno aggiustati, lavori che se ne potrebbe fare a meno, lavori che non ci sono più, eccetera. Cose soggettive in larghissima parte. Se io vado in giro dicendo che la prostituzione e lo stupro sono la stessa cosa, non faccio altro che dare forza a quanti percepiscono il lavoro sessuale come una terra selvaggia in cui tutto può essere fatto alla persona che ho davanti. Oltre a fare un discorso alquanto ignorante sul tema della prostituzione, che può andare da un contratto di matrimonio molto ricco alla strada, attraversando un bel po' di sfumature, mentre se dico che la prostituzione prevede forme di violenza che vanno contrastate e che ogni persona coinvolta ha diritto di recedere dall'accordo qualora i termini non vengano rispettati, a dire di no alla violazione della propria integrità fisica, psichica e morale, non solo sto dicendo che può esserci stupro, ma che questo è inaccettabile, ma soprattutto che le persone variamente coinvolte nel fenomeno della prostituzione sono effettivamente soggetti, appunto, persone. I miei dubbi sull'inopportunità associazione sono sbagliati? Mi sembra molto contorto come modo di proteggere le persone, un modo che le espone ancora di più alla violenza. E quindi siamo arrivati al termine della trasmissione e volevamo leggervi, c'è Dennis che cura per i nomi delle cose la rubrica quelle che non hanno il genere ma hanno la classe ogni ultimo mercoledì del mese, ci ha mandato uno scritto interessante, cioè ha fatto per noi una specie di disamina di quelle che sono le posizioni sulla prostituzione. Cioè dice che c'è un regolamentarismo buono, cioè che quello che predica diritti per le sex workers, regolarizzazione fiscale, e per cui devono pagare le tasse, e per cui devono essere garantiti tutta una serie di diritti. Poi c'è un proibizionismo e poi c'è l'abolizionismo. Vi leggo testualmente quello che Dennis dice riguardo al proibizionismo e l'abolizionismo. Il proibizionismo e l'abolizionismo possono essere considerati simili a livello pratico, ma sono mossi da motivazioni leggermente differenti. Un proibizionista vede la prostituzione come immorale, no? L'abolizionista invece fa un'analisi politica di tipo femminista, però tende a precisare in senso lato, perché i femminismi sono tanti e non sono tutti buoni. Mi riferisco al femminismo come una politica, a questo femminismo come una politica di donne sulle donne fatta da donne, parlando proprio di questo contesto, e che non vede la prostituzione direttamente come immorale, ma di fatto è pensato come uno stigma, e quindi mette comunque uno stigma sulla prostituzione, su chi la pratica, no? E quindi dice: l'abolizionismo origine da un'analisi che non tiene mai conto. Quindi l'abolizionismo è quello che muove questa legge francese. Il regolamentarismo è quello che a cui fanno riferimento tante associazioni di sex workers quando fanno chiedono regolarizzazione, chiedono un riconoscimento, eccetera. Il proibizionismo è chi ha posizioni di tipo assolutamente moralistico, come può essere un certo tipo di destra. L'abolizionismo invece è proprio questo della legge francese, per cui si fa riferimento a tutta una serie di posizioni per cui comunque la prostituzione è sempre un male, no? Dice: l'abolizionismo è un'analisi che non tiene conto praticamente mai delle autonarrazioni degli sex workers. In pratica se la cantano e se la suonano, questi dell'abolizionismo, e se l'esperienza di qualcuno li contraddice fanno finta di niente, e se presentano dati dicono che sono falsi o falsati o altre cose del genere, a meno che non siano narrazioni strumentali alla loro visione. Cioè schiavismo e basta. Nonostante esistano femministe e comuniste che sono anche proibizioniste, un'analisi materialista seria non può essere proibizionista, perché un materialista o una materialista riconoscerebbe un paio di cose almeno. Innanzitutto che anche il matrimonio coppia è una configurazione nel quale troviamo lavoro e sesso, dove il lavoro è quello di cura domestico e il sesso è come da contratto, parte della relazione eterosessuale monogama, sia essa sancita con un'unione formale davanti alla legge o meno. Ma il matrimonio coppia non viene osteggiato come la prostituzione, anzi, poi perché un materialista riconosce che tutto il lavoro è sfruttamento, e considerare la prostituzione qualcosa di diverso da abolire e non da migliorare, e un giorno da abolire in quanto lavoro, non in quanto lavoro sessuale, con rivendicazioni solo perché vi è di mezzo un'attività di natura sessuale, è antimaterialista e stupido. Sempre per quanto riguarda un'analisi materialista, suddetta analisi non può basarsi su casi borderline, per quanto frequenti, come tratte, affini, per una valutazione di tutto il lavoro sessuale. Sarebbe come parlare di capitale e lavoro basandosi unicamente sugli immigrati che colgono le arance con 5 euro al giorno frustate sulla schiena. Per quanto questi esistano, non rappresentano certo la condizione di chiunque abbia a che fare con un lavoro salariato. Poi Dennis ci ha mandato un'analisi altrettanto interessante sul vendere il proprio corpo, no? Dice: vendere il proprio corpo, dice, signora, che non parliamo di pezzi staccati dal nostro corpo e venduti come pezzi di carne animale, bensì alla vendita di servizi di natura sessuale. La vendita di beni merci e la vendita di servizi differiscono proprio in questo. Quando vendi una merce, vendi un oggetto. Quando vendi un servizio, vendi una prestazione di qualsiasi tipo, offerta da un soggetto, non oggetto. È comunque oltremodo curioso notare come l'abolizionismo veda la prostituzione come oggettificazione del corpo della donna, ma non si faccia scrupoli a renderla oggetto nel linguaggio. Oltretutto noi ci vendiamo in continuazione. In catena di montaggio vendi le tue braccia, la tua coordinazione psicomotoria, in ufficio e nel lavoro culturale vendiamo la testa e l'immaterialità che la nostra testa produce, idee per esempio. Perché è possibile sfruttare una persona in tutto ma non nei genitali? La motivazione potrebbe essere perché la sessualità è una cosa personale, ma questa affermazione può rientrare nel moralismo proibizionista che schifiamo il vedere a prioristicamente, dice Dennis, e anche noi il vedere la sessualità in una certa maniera è una propria morale, imporla a tutti invece è moralismo. Ed è inoltre una posizione ingenua, perché anche il nostro desiderio, la nostra sessualità è politica e ricoprono un ruolo specifico nell'attuarsi di alcuni dispositivi specifici nella nostra società. Ma dire che la prostituzione a qualche titolo perpetua o sancisce oggettificazione è esattamente come dire che il lavoro salariato in generale si perpetua tramite il lavoro della classe lavoratrice. Ad ogni modo mi pare importante ribadire anche dell'altro, e cioè che abolizionismo e proibizionismo sono pericolosi anche per altri motivi. Nel momento in cui questi vengono passati al setaccio e tradotti nella creazione di prodotti legislativi, quello che si afferma implicitamente è che una questione sociale è una questione di ordine pubblico, da gestire esclusivamente tramite ordinanze e forze dell'ordine. Ciò colpisce in primis le sex e i sex workers e in seguito chiunque attacchi l'esistente, e si afferma implicitamente anche un'altra cosa, cioè l'esistenza di un'esperienza di lavoro sessuale universale e universalizzata, che evidentemente non esiste perché assi come genere, razza e quant'altro la diversificano. L'esperienza di una donna immigrata trans che si prostituisce sulla circonvallazione è differente da quella della donna cis bianca che fa la escort ad alti livelli. Altrimenti, oltre alla generica miope abolizione e proibizione, si attenderebbero provvedimenti specifici per tutte le nuance presenti nell'ambito del sex work. It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. niente, vostro mestiere fare gli altri, se avete abbandonato crudelmente, siete pagati a fare gli altri. È uscita Scarcerando 2014, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Scarceranda è un'agenda autoprodotta da Rai Onda Rossa. Scarceranda viene donata e spedita alle persone prigioniere che ne facciano richiesta. Acquista la tua copia e segnalaci il nome di un detenuto o di una detenuta a cui inviarla. Disegni anticarcerari, ricette evasive e un quaderno con scritti contro il carcere. Tutto questo è Scarceranda. Puoi trovare Scarceranda presso gli studi di Radio Onda Rossa a via De Volci 56 oppure agli info shop di Movimento. In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato. Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita. Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti. Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vive sezione allo sfruttamento. Questa è Radio Onda Rossa. Onda Rossa 87.9 FM. Il lancio delle bottiglie incendiarie con quasi diarie per sé cristiani sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di Radio Onda Rossa. La voce della cultura antagonista. Sta sentì Radio Onda Rossa, non te dove sta sentì. Sta sentina d'onda rossa, non te nove, resta qui. La frequenza antagonista che da qua non se ne va. 87.9 non c'è mai pubblicità. Radio Onda Rossa, e danno. Stai ascoltando Radio Onda Rossa. Listen, it's the rhythm of the universe. Listen to the universe pulsating. We'll be right back. Radio Onda Rossa. Senza voglia di tornare. Musica è come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirene come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere che voglio andare. Guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy. Devi seguire i tuoi amici. Ma che sei la guardia? Devi farti i cazzi di tutti. Devi trovare il tasto canci. La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria. Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie. Devi twittare ogni due minuti. Ti devi piacere. Ti deve piacere. Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook. Devi avere Stephen Hawking su Ruzle. Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso. Ti devi loggare. Devi farti un MacBook. Ti devi aggiornare. Ci devi dare la tua posizione. Ti devi pacciare. Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone. Devi condividere tutto. Dammi il tuo numero di cellulare. Devi cambiare il mood. Devi taggare tutto. Tutto. No, no, no, no, no, no, no, no. Il vero sballo è dire no. Yeah, now with a man who can't take the battery, you know. So let the door hit ya. Aye, I wear the good Lord splits ya. Brand new music on this. Aye, you say you love me and you care, but you're never then near. You're always on the run. Now tell me this, why we can't spend no quality time? Kick back and just unwind. You always have something to do. That simple mean that love you're not true, cause only when you want to me hear you shout I love you. Tell me where all the passion gone, all of the warmth. Tell me where is all of the tenderness. And here is something else that's been bugging me for so long. Tell me this, tell me if love's so nice. Tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice. Tell me why I'm sad. Me sing again, if love's so nice. Tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice. Tell me why I'm sad. Me sing again, well. Why if your nails fi do a me, bills fi pay a me, ear fi do a me, and you're making fun of me, and I'm the one with the J-O-B. So baby, why won't you give me some TLC? And there is rumors going around. Say when I'm out of town, there is a man where I'm supposed to be. Too late to be begging on your knees. Hand me my keys and let go of me shirt sleeve. You can go do as you please. You can go talk to John, Peter or Steve. Because if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. Missing again, if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. Missing again, no man no want to live a lonely life of that, I'm sure. But me nah go second for less when I know I deserve more. Every day from me vessel when me love you come a pour it out. You pour it out. And when me ready for some my years, you lock me out and change your route, and then you run your mouth. But you no know what love is about, hell. Well, I am sick and I'm tired and I'm sick. I don't want no more of this. Because if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. Missing again, if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. I hear me sing. You say you love me and you care, but you're never then here. You're always on the run. Now tell me this, why we can't spend no quality time? Kick back and just unwind. You always have something to do. That simple mean that love you're not true, cause only when you want to me hear you shout I love you. Tell me where all the passion gone, all of the warmth, and tell me where is all of the tenderness. And there is something else that's been bugging me for so long. Tell me this, tell me if love's so nice. Tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice. Tell me why I'm sad. Missing again, if love's so nice. Tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice. Tell me why I'm sad again. Why if your nails fi do a me, bills fi pay a me, ear fi do a me, and you're making fun of me, and I'm the one with the J-O-B. So baby, why won't you give me some TLC? And there is rumors going around. Say when I'm out of town, there is a man where I'm supposed to be. Too late to be begging on your knees. Hand me my keys. We'll be right back. 21 e 45 minuti primi. Le frequenze, quelle di Radio Onda Rossa. A San Lorenzo. Passano a Via dei Volsci vecchie conoscenze della radio e della via. Noi stiamo aspettando il fantasma, la sua apparizione. E poi daremo il via alle danze. Ricordiamo. Ricordiamo. Che questa sera, come avrete potuto notare, le prove tecniche di trasmissione di Radio Onda Rossa non sono andate in onda. Dicevamo, le prove tecniche di trasmissione non vanno in onda, non sono andate in onda. Causa vetustà dei conduttori di Radio Onda Rossa. Che si beccano l'influenza con una certa frequenza. Quindi auguri di pronta guarigione al buon Elettrodo. Speriamo di averlo venerdì con Disorder. Dopo niente da vendere. Il contenitore del venerdì pomeriggio. Con suoni che spaziano buon Elettrodo. Okay. This is a song that some people like and some people hate, but we're glad we did it. It's not against skinheads. It's not against long hairs. It's against people who are stupid in the head. Don't matter what you look like, it's what's in your head. This song is against racists. People who start fights. People who are fascists in the head. Nazi rednecks, fuck off! Unless you think. fuori dalla zona rossa e a vent'anni a Piazza Limonda, nella bella età di quando tuffi il cuore nel mare, l'amore ti porta lontano per mano, a passare le frontiere non puoi fermare, sentire l'istinto di andare e gridare contro l'odiatore di un carabiniere, chi l'ha infranto, rotto, messo sotto con ignoranza e tanta prepotenza, l'ha fatta franca quell'ignoranza che è la grande povertà della piccola ridicola Italia che verrà, la divisa senza nome in quella notte cilena è sempre una pericolosa divisa italiana. Restano sospesi nei ricordi di chi c'era, i volti coperti dietro la visiera, la mano vigliacca della polizia nascosta dietro i caschi della scuola Diaz. Genova al sole di notte, la sirena del porto suona ancora forte, non è solo un ricordo, una radice, mettete ai poliziotti il codice sulle divise. Genova al sole di notte, la sirena del porto suona ancora forte.